Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Lucy aveva fatto progressi dalla primavera in poi. Vale a dire che ora era più brava a soffocare i sentimenti che il mondo e le convenzioni disapprovano. Sebbene il pericolo fosse più grave, non fu scossa da forti singhiozzi. Disse a Cecil: «Non aspettatemi per il tè, avverti la mamma, devo scrivere delle lettere», e salì in camera sua, dove si preparò all'azione. L'amore è provato e condiviso, l'amore che i nostri corpi esigono e che i nostri cuori hanno trasfigurato, l'amore che è la cosa più reale in cui mai ci sarà dato imbatterci, ora ricompariva come il nemico del mondo e bisognava che lei lo soffocasse. Mandò a chiamare la signorina Bartlett. La contesa non ha luogo fra l'amore e il dovere. Forse una contesa del genere non c'è mai. Essa ha luogo fra la realtà e la finzione. E il primo scopo di Lucy era quello di sconfiggere se stessa. Man mano che le si offuscava il cervello, man mano che il ricordo delle vedute impallidiva e che si dileguavano le parole del libro, lei ritornava alla sua vieta formula dei nervi. Superò la crisi di sconforto. Manipolando la verità, dimenticò che la verità fosse mai esistita. Ricordando di essere fidanzata con Cecil, si costrinse a formare confuse rimembranze di George. George non contava nulla per lei, non aveva contato mai nulla, si era comportato in maniera obbrobriosa, lei non lo aveva incoraggiato mai. La corazza della falsità è sottilmente forgiata col buio e non nasconde un uomo solamente agli altri, ma anche alla sua anima stessa. Dopo pochi momenti Lucy era equipaggiata per la battaglia. «È successa una cosa troppo orribile», cominciò non appena ebbe davanti a sé la cugina. «Sai niente del romanzo della signorina Levish?» La signorina Bartlett si mostrò stupita e disse che lei non aveva letto il libro, anzi, ignorava che fosse uscito. Eleanor era una donna reticente, in fondo. «C'è una scena nel romanzo dove i due protagonisti fanno all'amore. Lo sapevi questo?» «Cara?» «Rispondi, per piacere, lo sapevi?» ripete Lucy. «Sono su una collina e si vede Firenze in lontananza. Mia buona Lucia, io brancolo nel buio più fitto. Non ne sapevo nulla di nulla. Ci sono anche delle violette. Charlotte, come hai potuto dirglielo? Ho riflettuto prima di parlare. Devi essere stata tu.» «Dirle che cosa?» domandò la signorina Bartlett con agitazione crescente. «Quello che accadde quel terribile pomeriggio del febbraio scorso.» La signorina Bartlett era genuinamente commossa. «Oh, Lucy, figliola carissima, non l'avrà mica messo nel libro?» Lucy annuì. «Ma non in forma riconoscibile?» «Sì.» «Allora mai, mai, mai più Eleanor Levish sarà amica mia.» «Glielo dicesti, dunque?» «Mi scappò detto così, per caso, a Roma, quando presi il tè insieme a lei nel corso della conversazione. Ma Charlotte, è la parola che mi desti mentre facevamo le valigie. Perché lo dicesti alla signorina Levish, dal momento che non mi autorizzasti a dirlo neppure alla mamma? A Eleanor non gliela perdonerò mai. Ha tradito la mia confidenza. Perché glielo dicesti, insomma? Ti rendi conto di quanto è seria questa faccenda?» «Perché si dicono le cose? La domanda è eterna. E non c'era da meravigliarsi che per tutta risposta la signorina Bartlett emettesse un fievole sospiro. Aveva agito male, questo lo riconobbe. Sperava soltanto di non aver anche arrecato alcun danno. Aveva parlato a Eleanor nella massima segretezza. Lucy pestò i piedi per la rabbia. «Cecil, vedi combinazione, ha letto quel brano a voce alta, a me e al signor Emerson. Il signor Emerson ne è rimasto sconvolto e mi ha insultata da capo. Alle spalle di Cecil... Possibile che gli uomini siano una simile razza di bruti? Alle spalle di Cecil, in giardino, mentre stavamo tornando verso casa.» La signorina Bartlett proruppe in autoaccuse e querimonie. «E adesso che si fa? Sapresti dirmelo tu?» «Oh, Lucy, non mi perdonerò mai, mai, nemmeno sul letto di morte.» «Pensa se il tuo avvenire...» «Appunto», disse Lucy, trasalendo nell'udire la parola. «Ora capisco perché volevi che lo raccontassi a Cecil e che cosa significava il tuo accenno a... un'altra fonte. Sapevi di averlo detto alla signorina Levish e sapevi anche che è una persona malfida.» Toccò alla signorina Bartlett trasalire. «Comunque, proseguì la ragazza senza nascondere il suo disprezzo per la doppiezza della cugina, quel che è fatto, mi hai messa in una situazione imbarazzantissima. In che modo potrò uscirne? La signorina Bartlett non fu in grado di escogitarlo. I giorni della sua energia erano finiti. Era un ospite lei, non più uno chaperon, e un ospite screditata per di più. Rimase immobile a mani giunte, mentre Lucy si predisponeva al parossismo dell'ira necessaria. Quell'individuo deve subire una tale lezione che non gli sarà facile dimenticarsene. E chi è che gliela infliggerà? Io non posso dire nulla alla mamma ormai, grazie a te. E neanche a Cecil, Charlotte, grazie a te. Ho le mani legate in ogni senso. Credo che impazzirò. Non ho nessuno che mi aiuti. Ecco perché mi sono rivolta a te. Quello che ci vorrebbe è un uomo con la frusta. La signorina Bartlett approvò. Ci voleva proprio un uomo con la frusta. Già, ma approvare non serve. Com'è che bisogna agire? Noi donne siamo buone soltanto a blaterare a vanvera. Come agisce una ragazza quando inciampa in un mascalzone? Io l'ho sempre sostenuto, carina, che era un mascalzone. Questo modesto merito deve riconoscermelo, almeno. Fin dal primo momento, quando disse che suo padre stava facendo il bagno, me ne infischio del merito o di chi ha avuto torto o ragione. Abbiamo combinato un pasticcio tutte e due. George Emerson è ancora giù in giardino e ha da restare impunito, sì o no? Esigo una risposta. La signorina Bartlett era assolutamente impotente. La coscienza di essere stata smascherata le aveva fiaccato lo spirito e i pensieri le cozzavano dolorosamente nel cervello. Si diresse a languidi passi verso la finestra e tentò di distinguere l'abito di flanella bianca del mascalzone nel folto degli allori. Alla pensione Bertolini fosti abbastanza svelta quando si trattò di spedirmi a Roma in fretta e furia. Non puoi parlargli anche questa volta? Ben volentieri muoverei cielo e terra. Voglio qualcosa di più definito, disse sprezzantemente Lucy. Sei disposta a parlargli? È certo il meno che puoi fare se si considera che tutto è successo perché hai mancato alla parola data. Mai più Eleanor Levish sarà amica mia. Charlotte stava davvero superando se stessa. Sì o no? Rispondi per piacere. Sì o no? È una di quelle situazioni che solo un gentiluomo sarebbe capace di risolvere. George Emerson risaliva il vialetto del giardino con una palla da tennis in mano. «Benissimo», disse Lucy con un gesto rabbioso. «Nessuno vuole aiutarmi? Gli parlerò io stessa». E si accorse immediatamente che proprio questo aveva inteso sua cugina fin dal primo momento. «Ciao, Emerson!» gridò Freddy dal pian terreno. «Hai trovato la palla perduta, bravo figliolo! Vuoi il tè?» E ci fu un'irruzione dalla casa sulla terrazza. «Oh, Lucy, ma è un atto di grande coraggio da parte tua. Io ti ammiro e...» disse la signora Bartlett. Tutti si erano raccolti intorno a George, che le faceva cenno, Lucy ne ebbe la percezione, di là dall'ammasso delle scorie, dei pensieri svenevoli, degli aneliti furtivi che cominciavano a ingombrarle l'anima. La collera si dileguò nel vederlo. Ah, gli Emerson erano gente di prim'ordine, a modo loro. Dovette dominare il tumulto del sangue, prima di poter dire... Freddy lo ha condotto in sala da pranzo. Gli altri stanno scendendo in giardino. Muoviamoci. Risolviamo al più presto questa storia. Vieni. Voglio che tu sia presente, ben inteso. Lucy, ti pesa compiere questo passo? Domandò la signorina Bartlett. Come puoi fare una domanda così ridicola? Povera Lucy. La signorina Bartlett protese il braccio. Sembra proprio che dovunque io vada non provochi altro che disgrazie. Lucy annuì. Ricordò la loro ultima sera a Firenze, le valigie, la candela, l'ombra che la toque di Charlotte proiettava sulla porta. Non si sarebbe lasciata intrappolare una seconda volta dalla compassione. Schivando la carezza della cugina, la precedé da basso. «Assaggia la marmellata», stava dicendo Freddy. «La marmellata è fenomenale». George, grande e grosso e scarmigliato, marciava su e giù per la stanza. Mentre Lucy vi entrava, si fermò e rispose «No, niente da mangiare». «Scendi dagli altri, tu», disse Lucy. «Charlotte e io daremo al signor Emerson tutto ciò che desidera. Dov'è la mamma?» «In salotto, alle prese con la corrispondenza domenicale. Bene, vattene pure». Freddy se ne andò cantando. Lucy si mise a sedere davanti alla tavola. La signorina Bartlett, al colmo del terrore, prese un libro e finse di immergersi nella lettura. Lucy non volle impelagarsi in discorsi complicati. Si limitò a dire «Signor Emerson, non posso tollerarlo». E non posso neanche parlarle. Esca da casa mia e non ci rimetta più piede finché ci starò io. Arrossì. Nel dire questo, egli indicò la porta. Detesto le scenate. Faccia il piacere di andarsene. Cosa? Bando alle discussioni, ma non posso. Lucy scosse la testa. Se ne vada, per favore. Non voglio essere costretta a chiamare il signor Weiss. Non intenderà sul serio, disse George, ignorando nel modo più assoluto la signorina Bartlett. Non intenderà sul serio sposare quell'uomo. La battuta giunse in attesa. Lucy scrollò le spalle come se fosse stufa di tanta volgarità. Lei è semplicemente ridicolo, disse con voce ferma. Allora le parole di George sorsero gravi sopra le sue. Lei non può vivere con Weiss. Weiss può andare tutt'al più per dei rapporti superficiali. Può andare per la buona società e per la conversazione colta. Non dovrebbe conoscere intimamente nessuno e meno che mai una donna. Il personaggio Cecil veniva messo in una luce nuova. Ha mai parlato con Weiss senza sentirsi stanca? Trovo fuori luogo discutere? No. Ma ha mai parlato con lui? È uno di quegli individui sui quali non c'è niente da ridire finché si atterranno alle cose, libri, quadri, ma che diventano micidiali quando passano alle persone. Ecco perché, perfino al punto in cui siamo, voglio dire la mia, su questo imbroglio. È già spaventoso rinunziare a lei in ogni caso. Ma generalmente un uomo deve negarsi la gioia. E io avrei taciuto se il suo Cecil fosse stato una persona diversa. Sarei riuscito a dominarmi. Ma alla National Gallery, dove lo vidi per la prima volta, mi accorsi che fremeva perché mio padre sbagliava a pronunciare i nomi dei grandi pittori. E poi ci conduce qui e scopriamo che si propone di giocare uno stupido scherzo a un galantuomo vostro vicino. C'è tutto lui in questo modo di agire. Lui che si fa beffe del prossimo, della forma più sacra di vita che gli capita sotto mano. Infine vi incontro tutti e due insieme e osservo che protegge lei e sua madre, che vi insegna a scandalizzarvi, mentre aspettava a voi stabilire se eravate o non eravate scandalizzate. Da capo c'è tutto Cecil qui dentro. Non ha il coraggio di lasciare a una donna la libertà di decidere. È il tipo che ha ritardato di 1000 anni l'evoluzione dell'Europa. Passa ogni istante della sua vita a plasmare la ragazza che si è scelto, a spiegarle che cosa è squisito o spiritoso o degno di una signora, a spiegarle cos'è che un uomo giudica confacente a una donna, e lei fra tutte le donne, ascolta la voce di Cecil invece della sua. Così successe giorni fa al rettorato, quando vi rividi insieme. Così è successo oggi, dal principio alla fine del pomeriggio. Ecco perché, non ecco perché l'ho baciata, dal momento che è stato il libro a farmelo fare. E rimpiango sinceramente di non sapermi controllare meglio. Non mi vergogno. Non chiedo scusa. Lei però si è impaurita e forse non si è accorta che l'amo. Altrimenti mi avrebbe detto di andarmene e avrebbe preso alla leggera una cosa di così enorme importanza. Ecco invece perché. Perché mi sono prefisso di dare battaglia a quell'uomo. Lucy concepì un'osservazione eccellente. Signor Emerson, a sentire lei, il signor Weiss esige che io lo ascolti. Perdoni se mi si affaccia il sospetto che l'abitudine abbia contagiato lei pure. E lui si prese lo specioso rimprovero e con un tocco lo rese immortale. Disse: «Sì, è vero», e si afflosciò come se fosse improvvisamente sfinito. «Sono un bruto della stessa razza, in fondo. Questa mania di governare una donna è radicata a gran profondità e gli uomini e le donne dovranno combatterla insieme prima di poter entrare nel giardino. Ma io ti amo». «Certo, in una forma migliore di quanto non ti ami lui», rifletté. «Sì, in una forma davvero migliore. Voglio che tu abbia i tuoi propri pensieri anche quando ti tengo fra le braccia, le protese verso di lei. Lucy, fa presto, non abbiamo tempo di parlare adesso. Vieni a me come venisti a me in primavera e dopo sarò arrendevole e capace di dare spiegazioni. Ti ho voluto bene fin dal giorno in cui morì quell'uomo. Non posso vivere senza di te». «Inutile», pensai, «sta per sposare un altro. Ma ti incontro di nuovo quando il mondo è tutto uno sfolgorio di acqua e di sole. Mentre venivi avanti nel bosco, capii che non contava nient'altro. Ti chiamai, volevo vivere e tentare la mia sorte di gioia». «E il signor Weiss?» disse Lucy, che manteneva una calma lodevole. «Non conta lui? Che io amo Cecil e che fra poco sarò sua moglie. Sarebbe un particolare insignificante, questo?» Ma George distese le braccia sulla tavola, verso di lei. «Posso chiedere quale vantaggio intende ricavare da una simile esibizione?» George disse: «È la nostra ultima opportunità. Farò tutto quello che posso». E quasi non gli restasse da fare altro, si rivolse alla signorina Bartlett, che campeggiava come un oscuro presagio contro i cieli della sera. «Se lei capisse, non ci ostacolerebbe per la seconda volta», soggiunse. «Io sono stato nel buio e ci ritornerò, a meno che lei non voglia provarsi a capire». La lunga, stretta testa dell'interpellata si spingeva avanti e indietro come per demolire un intralcio invisibile. La signorina Bartlett non rispose. «Il fatto di essere giovani», disse pacatamente George, raccogliendo da terra la racchetta e preparandosi ad andarsene. «Il fatto di essere sicuri che in realtà Lucy vuole bene a me, che l'amore e la gioventù contano intellettualmente». In silenzio le due donne seguirono le sue mosse. L'ultima frase era assurda, lo sapevano, ma dopo averla pronunziata, se ne sarebbe andato o no? Non avrebbe tentato il mascalzone, il ciarlatano, un finale più drammatico? Ma che? Evidentemente era soddisfatto. Le lasciò sole, richiuse accuratamente l'uscio di strada, e quando si affacciarono alla finestra della hall, lo videro percorrere il viale e iniziare la salita degli scaglioni coperti di felci appassite sul retro della casa. Alle cugine si sciolse la lingua e diedero sfogo alla loro esultanza clandestina. «Oh, Lucia, torna qui! Oh, che essere spaventoso!» Lucy non ebbe reazioni, non ancora, almeno. «Beh, mi diverte», disse. «O sono matta io o è matto lui, e propendo per la seconda versione. Un altro motivo di agitazione è stato risolto per opera tua. Grazie mille, Charlotte. Credo però che sarà anche l'ultimo. Dubito che il mio ammiratore torni a importunarmi di nuovo». E la signorina Bartlett, anche lei, volle cimentarsi nel genere furfantesco. «Ma non sono tante le donne che possono vantare una conquista del genere, né vero, carissima? Oh, non bisognerebbe ridere, lo so. Poteva essere un affare parecchio serio, ma tu sei stata così assennata e coraggiosa, così differente dalle ragazze dei miei tempi. Scendiamo dagli altri». Ma una volta che fu all'aria aperta, Lucy si fermò. Una qualche emozione, pietà, terrore, amore, comunque l'emozione era forte, si impossessò di lei e avvertì la presenza dell'autunno. L'estate finiva e la sera le recava odori di marcescenza, tanto più patetici perché evocavano ricordi di primavera. Che qualcosa contasse intellettualmente. Una foglia, agitata con forza, le passò davanti, danzando, mentre altre foglie restavano immobili. Che la terra si stesse affrettando a rientrare nel buio e le ombre degli alberi a strisciare su Windy Corner? «Ehi, Lucy!» disse Freddy. «Ci si vede ancora abbastanza per fare un ultimo set, se voi due vi sbrigate. Il signor Emerson ha dovuto andarsene. Che noia! Addio doppio, allora. Via, Cecil, sì, buono, gioca anche tu. È l'ultimo giorno che Floyd passa con noi. Dai, gioca a tennis, solo per questa volta». Giunse la voce di Cecil. «Mio caro Freddy, non sono uno sportivo, io. Come tu stesso osservavi giustamente stamattina, c'è una razza di gente che non è buona a nulla, fuorché a vedersela coi libri. Mi dichiaro colpevole di appartenere a questa razza e non intendo infliggermi la mia persona». La benda le cadde dagli occhi. Come aveva potuto tollerare Cecil, anche per un istante? Era un essere assolutamente impossibile. E quella sera stessa, Lucy ruppe il fidanzamento. Cecil restò esterrefatto. Gli mancarono le parole. Non si adirò neppure, ma stette fermo con un bicchiere di whisky tra le mani, a tentare di capire cosa l'avesse indotta a prendere una simile decisione. Lucy aveva scelto il momento prima di andare a letto, quando, in osservanza della loro consuetudine borghese, distribuiva sempre i liquori agli uomini. Si poteva essere certi che Freddy e il signor Floyd sarebbero saliti a coricarsi con i loro bicchieri e che Cecil si sarebbe invariabilmente trattenuto a sorseggiare il suo whisky mentre lei richiudeva a chiave la credenza. «Mi dispiace moltissimo», gli disse Lucy. «Ho riflettuto attentamente. Noi due siamo troppo diversi. Devo pregarti di rendermi la mia libertà e di cercare di dimenticare che sia mai esistita una ragazza sciocca come me». Era un discorsetto adeguato alla circostanza, ma Lucy era più arrabbiata che spiacente, e la sua voce lo lasciò trapelare. «Diversi? In che senso? In che senso? Tanto per cominciare, io non ho una cultura veramente profonda, continuò la ragazza, tuttora in ginocchio davanti alla credenza. Il mio viaggio in Italia è avvenuto troppo tardi e sto dimenticando tutto quello che avevo imparato laggiù. Non riuscirò mai a conversare con i tuoi amici o comportarmi come dovrebbe comportarsi la donna che fosse tua moglie. Non ti capisco. Non sembri più la stessa. Tu sei stanca, Lucy. Stanca, ribatté Lucy riscaldandosi immediatamente. Questa è proprio da te. Credi sempre che le donne non pensino ciò che dicono. Beh, ho l'impressione che tu sia stanca, come se avessi qualche motivo di inquietudine. E se anche lo fossi? La stanchezza non mi impedirebbe di rendermi conto della realtà. Non posso sposarti. E un giorno mi ringrazierai d'avertelo detto. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.